4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ora. Ascolta, e tu invece come mi senti? Io sto usando il microfono originale del Jobbix. Come mi ascolti? Com'è il suono della radio? Ma già va bene, quello mio ce l'hai ancora, quello che ti avevo io un po' di anni fa, quello ZG. Sì, adesso stamani ho collegato questo per farlo andare un pochettino e volevo sapere come mi ascoltavi, dai. No, già va bene già. Quello lì era stato modificato da mio padre, quello lì, perché non andava tanto. È stata presa una capsula di telefoni quelli bianchi. E l'aveva fatto lui che poco pompava. Ciao Gianni, tanto non stai pompando, tocca il microfono. Hola. Sto parlando. No, non ti sento pompare. Tocca con la levetta sciotta di nuovo. No, è normale. Stai usando il microfono normale? Beh, cosa sono contrattenti, gra? Stai usando il grande con il microfono normale? Ma che grande! Sto usando l'Intec. Ah, che come l'ho scelta? Va bene, allora, ottimo per la truppa. Poi stavo usando il tappa e non stavi pompando di radio. Oh, quello lì c'è la casa. E chi su già pompa, non ti preoccupare. Tanto sei talmente forte che pensavo fossi a casa tua, ma ammazza di nell'aria. Va bene, non ho visto l'orario, là sei al lavoro. Va bene, continuate che sto facendo cose. Ciao Gianni. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Ma che canto di soccorri vendi da quelle parti? Entro 9:20 arrivi 9:20. Ando di un giocattolino, mi non venuta e no, che un giocattolino, Ma già funziona, vai. Vabbè, ma sei molto più vicino rispetto a casa tua, capito? Quindi il segnale è un bel forte, un bel, sia a livello di tutti quelli che ho vicino. Va bene, dai. No, ti sentivo diverso di radio, il microfono sta andando di nuovo. Va bene, allora, adesso ho capito, stai usando l'altra radio. Continua con Gianni e rimango in ascolto. Ciao a tutti e due. Ciao, Cla. No, già va bene, dai. Già andava in chiesto, guarda. Adesso non posso buttare un gatto, no, che no. Lo lascio a casa. Ciao Claudio, non so se mi è copiato, se mi ha sorpassato Antonio, dai. Sì, beh Antonio arriva a 9:20, tu sei 9:10 già. Io non sono più, sono fuori Sassari, quindi Antonio c'è un segnale. Sono pochi che arrivano così. Va bene, dai, continuate, ciao comunque anche a te Gianni, ciao a chiunque fosse in ascolto su 10, ci sentiamo, riprendi Antonio. Ok. Ciao Claudio, risentiamo. Mi sa che c'era qualcun altro che forse voleva entrare. Avanti su 10. Ciao, ben ascoltati tutti quanti da Giovanni Certopettine, cambio. Sì. Ciao Giovanni Certopettine, buonasera. Ciao Antonio, ciao. Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera, ben entrato. Grazie. Ma perché non te lo metti un microfono un po' più forte, che è troppo basso, si sente. Vabbè, a casa forse un po' meglio, ma... Ciao. Avanti Giovanni, avanti. No, era un ascolto, vero? Sono col telefonino. Ehi, bene mera. Oggi ogni tanto c'era qualche soffio di propagazione, sentivo russi, inglesi, tedeschi, poi è sparito tutto. Io ero sulle bande laterali, cazzo, li sentivo, però non sono riuscito a mettermi in comunicazione con nessuno, cioè comunicavo, ma cazzo, questi parlano straniero, è un casino. È un travaglio, Bisogna studiare qualche lingua straniera, cazzo. Quest'anno è un po' così, L'anno scorso mi arrivava la Sicilia bomba. Antonio, hai cambiato microfono, hai sentito, giusto? Sempre lo stesso, è come il microfono. Sempre questo, perché? Mi sembra di aver capito che avevi cambiato il microfono. Negativo, cosa giambi no? Gianni, ci sei ancora? Ehi, positivo. No, volevo chiedere a Giovanni come mi ascoltava, se era buono il suono della radio. Il suono della radio è molto buono, mi rifai un passaggio, però ti ho visto, si vede poco, ma è intorno a scala 7. No, va bene, non mi interessa. interessa il segnale, più che altro il suono della radio, la modulazione. Se è buona, sto usando il microfono originale della radio rispetto all'M95 della ZG. Ogni tanto facciamo andare anche questo microfono, giusto per non fargli buoni dubbi. Allora, beh, se ne hai conviene sbolverare ogni tanto. Sì, si sente benissimo, ti ascolta bene bene. Bene mela, bene mela. Ogni tanto bisogna fargli sgranchire il TTT, sennò comincia a gracchiare e allora sorgono i problemi. Avanti, Anto. Comunque sta andando bene, non ti preoccupare. Eia, eia, poi il mollone è bello morbido rispetto all'altro, un po' più toscio. E quindi è comodo anche se ti devi spostare, dai. Bene mela, bene mela. Oia. Cosa volevo dire? Adesso mi sfugge. Vabbè, avanti Giova. Quando me lo ricordo già ve lo dico. Iuia, con questi controlli mi state rompendo anche le scatole, per forza poi la gente non c'entra più qua. Natali, tu sei una radio che non si sente in nulla. Sì, fu la mai, Natali, una volta che li chiedo io. Ma che c'è anche Natalino stasera? Ha bussato. Boh, Natali, ci sei? Sparito. Oh già. Ascolta, ci sentiamo alle prossime che devo andare a volare. Ok, ciao ciao. Andava bene anche tu. Ci aggiorniamo. Ti stavo chiedendo poco fa se c'hai un microfono da tavolo o palmare. Ma a me ce va? Sì, a te, sì. Positivo, a te. No, questo che sto usando è l'originale della radio, il palmare dinamico della radio. E anche amplificato il microfono? No, negativo. Non è amplificato. Buono, sente bene. Bene mela, è il suo, nuovo, proprio luccica. Oh, yeah. Natalino, ci sei? Ha bussato ed è scappato. Si sta organizzando, l'ho sentito stamattina, si sta organizzando con l'estate e tutto il resto per sollevare quell'antenna. Sì, ricordo che ci stavo lavorando. Ancora il tempo forse non è in condizioni ottimali, dai, magari si sta aspettando il tempo giusto, dai. Sì, è poco quel modulo, comunque con il tempo buono si sente anche meglio, no? Che dici? Ha voglia. Però credo che arrivi anche Mondesa da fuori, eh. Certo. Adesso da un paio di mesi non so se qua vicino hanno installato qualcosa o sono i punti della telefonia. Comunque sì, un po' il QRM di fondo si è alzato, dai. Per adesso questa la radio qui sento quanto pulito. Meglio, è probabile magari anche qualche elettrodomestico qua nel palazzo, un condizionatore, roba del genere. Ogni tanto durante la giornata aumenta e poi magari questa sera diminuisce, quindi presumo che sia qualche apparecchio elettrico qua vicino. A me mi dà un po' di disturbi alla radio se accendo le lampadine oppure se accendo la radio. No, qua a casa ho fatto delle verifiche, non c'è niente di interferisce, probabilmente cattura della sporcizia da fuori. Casa. Ho provato a spegnere tutti e accendere gli apparecchi per volta, non cambia assolutamente nulla, quindi presumo che sia qualcosa che proviene da fuori. Sì, nel tuo caso è sicuramente così, mentre il mio è un impianto a parte, capito? Però se accendo il telefonino oppure accendo la luce, vedo che disturba un poco. Soprattutto a quanto pare ci sono alcune lampade a LED che creano un disturbo, a quanto mi è stato detto. Bravo, quella che accendo io è proprio una lampada a LED. Oi, che ore sono? Le 7. 10 minuti e vado a fare della roba. Non dovevi cambiare l'antenna, non l'hai già cambiata, Giovanni? Ti avevo sentito qualche giorno fa che dovevi cambiare l'antenna. No, l'avevo, ce l'ho già, questa ce l'ho già almeno 3 settimane, se non di più pure. La dovevo sollevare perché era molto bassa. 10 giorni fa l'ho sollevata, non è tanto alta, sarà un 4 metri a terra, però a quanto pare funziona bene adesso. E io, se lo vuoi dire, che antenna hai messo? È una Sirio. Ah, 5 ottavi o mezz'onda? 5 ottavi, abbastanza economica, una cinquantina di euro. Ne ho visto un paio dell'Assirio, ma con radiali o senza? C'è dei radiali, 3 radiali e uno stereo sulla punta. Allora probabilmente quella che ho visto io, adesso non mi ricordo la sigla, se è GP27 o qualcosa del genere, boh, una cosa di quel tipo, dai. Sì, è quella, è la più economica di queste che ci sono della Sirio, dove 45-47 euro, una cosa così. Positivo, allora quella che ho visto io, forse vai, quella che ho beccato io era un attimino un po' più cara, boh. Sì, probabilmente era quella, mi ricordo una sigla GPE27, una cosa del genere, o GPA, boh, ma non me la metto. Comunque, l'ho vista anch'io su eBay. GPE27. Positivo. Sei soddisfatto? Se mi sentite sì, a quanto pare adesso ho risolto il problema, mi sentono tutti. Ehi, qua Santiago allo strumentino, prendilo così molto, molto alla mano, perché insomma lo strumentino non è così preciso e affidabile. Dai, qua più o meno sei su 9.20, dai, 9.15, 9.20. Ma è la radio, io ho problemi di radio sempre, capito? È la radio che mi interessa, il segnale bene o male si arriva, è la radio. Cosa c'hai, un palmare o un microfono a tavolo? È un palmare amplificato. Ah, ho capito. La radio originale o c'è smanettata sopra? No, è un vecchio Midland 7001, figurati, molto grande. Ho capito. Sicuramente se è tutta originale forse per via dell'omologazione sicuramente sarà chiusa e tarata per non spingere troppo, come tutte le radio d'altronde. No, ma mi va bene così, non intendo toccarla, ho sentito che arrivo con segnale 5 più. Sì, va bene Giova, va benissimo, va bene. Allora, vediamo un po', ogni tanto butto l'occhio sullo strumentino. Senti un po', a livello stazionario com'è quell'antenna? Pulita, zero, mi pare uno e qualcosa. Ehi, no, perché stavo pensando di cambiare anche io, stavo valutando di acquistare un'antenna di fascia bassa, dai, no? Non ho grandissime pretese, e ho visto anche quella, l'altra era la Venom mi sembra, e poi la Energy, però la Energy ha i radiali troppo grandi, è sconsigliabile, qua ci sono un sacco di gabbiani e di cornacchi, me le facciano subito. Hai ragione, comunque ti posso dire una cosa, se conosci la modulazione di Gianfranco California, io e lui abbiamo la 60. Sì, arriva Gianfranco, ha un bel segnalone, dai, si fa sentire. Quindi all'antenna come la tua, confermi? Positivo, confermo. Bene, sì, qua arriva fortissimo. Sì, un segnalone, e anche la radio bella potente. Tu sei a Sassari, giustamente, giusto? Sì, presi stazione ferroviaria. Sì, ho capito, ti ricordo l'altra volta quando mi dicevi il mio segnale aumentato, ero sulla vettura. Ah, in barra mobile? Bravo. E mi hai detto, ma dove sei? Sei vicino a casa, vicino alla stazione. Sì, ecco perché il segnalone era così potente. Oh, yeah. Io ho una boomerang della LEM, quella grande, quella da 2,75 m. Il vento me l'ha piegato un paio di volte, allora ho dovuto fare un lavoretto particolare perché mi si piegava sempre il radiale in punta, perché era sottodimensionato, allora ho preso una camicia di rame di un tubo, gli ho fatto un innesto quello robusto e adesso rimane bella dritta. C'hai messo i tiranti anche? No, negativo, no, non è bisogno, è leggerissima. Leggerissima, non ha bisogno. È sullo stesso palo dell'antenna TV, figurati. Ho capito. E non interferisce niente? No, negativo. Né a casa né agli altri del condominio, dai, no. Se no avrebbero già suonato il campanello. E a voglia. Io c'ho una Ringo, quella sarà 15-20 metri da testa, anche quella senza tirante, senza niente. Cazzo, il vento che sta prendendo è una cosa impressionante, perché qua siamo affreschi, eppure non gli ha fatto niente, assolutamente niente. E beh certo, poi immagino lì, proprio in prossimità del mare, ha voglia di vento. E anche qua già, quando tira, perché sono abbastanza in alto, quando tira già si fa sentire, infatti qualche settimana fa quella bella passata di maestrale me l'ha ammuticata un po' carino, sembrava una biscia. Ed è rimasta ancora lì, dai. Con le avversità c'è poco da fare. Fammi spostare sulla barra mobile a vedere se ti senti sempre. Ehi, dai, ancora qualche passaggio, facciamo questo controllo e poi ti lascio, dai, avanti. Va bene, sto andando. Giovanni, se ci sei, si stai modulando, io qua non sento niente. Avanti Giovanni, ti sento basso basso. Sì Giovanni, la radio è molto bassa, il segnale è un Santiago 7, ma la radio è bassa. E faccio fatica anche a capire quello che dici Giovanni, ho capito che sei tu perché ho riconosciuto la voce, però la radio è molto bassa. Via, va bene, magari, ma dove sei in macchina? Ho capito. Ciao Carlo, buonasera. Mi sono assentato un attimino. Giovanni, se sei in barra mobile non ti sento, Dai, mi sono spostato, sì, no, non c'era, non uscivo proprio stasera. Ieri funzionava bene. Stasera niente. Oh, finalmente ti sento bene, Giovanni. Santiago 9 qua. Ciao Carlo, ben sentito. Ieri con la vettura usciva bene, ho fatto le prove, tutto quanto. Oggi niente, non mi sentivo. Ti sentivo pio dalla macchina, ma oggi ti sento bene. Se sei a casa, immagino stai usando il 7001. Positivo, sì, con l'amplificato. E lascia questo, è perfetto. Qua arrivi bene di segnale di radio. C'era poi chi mi ha salutato, chi era? Daniele. Negativo, Gianni Lubrofetta da questa parte. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Gianni, scusa ma non ti ho riconosciuto. Niente, chi c'era oltre voi? Non c'è nessun altro, io ho acceso adesso. C'era Antonio, ma era lavoro. Poi è entrato Claudio a salutare. Ha fatto capolino anche Natalino. E niente, siamo rimasti di due. Tra l'altro faccio un altro paio di passaggi e poi vi devo lasciare. Non è un problema, Luca. Gianni, scusa, Uia, oggi sono... Niente, intanto c'è Giovanni qua e noi magari ci facciamo quattro chiacchiere, anch'io non mi posso trattenere molto perché alle 9 devo essere al lavoro, ad Alghero, per cui dopo mangio intorno alle 7:30, mi preparo e dovrò uscire. Bene, Uia, anche io sto per uscire, quindi dai. Colgo la palla al balzo, dai, vi saluto, dai. Ci aggiorniamo alle prossime, come si suol dire, dai. Buona serata a te Carlo, a Giovanni e agli ascoltatori, dai. Correti da parte mia e ci aggiorniamo alle prossime. Buona serata e a presto, dai. Ciao Gianni, grazie della piccola chiacchierata, ci sentiamo alle prossime. Ok, riprendi Giovanni. Sì, saluto a Gianni e lo ringrazio degli accorgimenti che mi ha fatto. Passati una bella serata, Gianni, ciao, alle prossime. Giovanni, lasciati qua. questa di radio a casa che è perfetta, con questa arrivi con un bel segnalone e un'ottima radio, radio 5 super piena. Adesso ti faccio ridere, adesso dopo l'ora, dopo pranzo è sceso mio fratello, no? E mia moglie ha detto, cazzo è sempre attaccato a questi cazzo di baracchini, dalla mattina alla sera, è scoppiato a ridere, però poi li ha voluti vedere, no? E mi ha fatto apprezzare anche lui, e ho detto, cazzo, compramelo tu, mi ha detto, quale ti piace? Io ho detto, il baracchino che mi piaceva, ha detto, adesso te lo compro, domani te lo ordino. E perché? Magari uno non l'ha mai provato e non sa cosa c'è dietro. Più che altro così, io lo faccio come tempo libero, sempre così, non è che ho mai diciamo fatto tante ore in radio, capito? Quindi ogni tanto entro mezz'ora, a volte sto anche un'oretta e se siamo in tanti così ascoltando oppure facendo delle prove, poi giustamente devi dedicare un po' di tempo a tutte le altre cose di famiglia e figli da accompagnare, a fare spesa, insomma, chi più ne ha più ne metta, il lavoro, molte volte io ci sono giorni che proprio non l'accendo proprio la radio, però di tanto in tanto, tipo adesso mi avevo un attimino e poi che provavo ad accendere a vedere se c'è qualcuno e ho sentito voi, Gianni che non l'avevo riconosciuto, ero da parecchio che non lo sentivo Gianni, niente, comunque il mio consiglio è usa per casa se non ti crea problemi questa radio perché va benissimo Giovanni. Sì sì, dopo tanto ho deciso, cioè non la tocco più, la stacco la sera perché sono fuori in veranda, capito? La stacco la sera, la riporto dentro e poi quando mi viene bene la riattacco quando voglio riaccendere. Avanti, chi vuole entrare? Ho sentito qualcuno. Sì, sì, ho capito, perché con questa io non ti avevo mai sentito così bene, con questa superi disturbi e tutto quanto, capito? E poi se non sbaglio questa c'ha la banda laterale. Certo. In più va benissimo così, se vuoi un mio parere, quindi antenna ok, radio ok, segnale idem, continua così Giovanni. Infatti, ciao. Adesso che stai dando delle buone direttive e dunque se mi stai dicendo che così, infatti quando mi chiedono qualcosa io dico no, come è possibile, mi faccio fare un controllo da Carlo. Aspetta Giovanni, andiamo un attimo, c'è qualcuno che vuole entrare. C'è Carlo e Giovanni. Brecco. Sì, avanti Brecco. Sì, buonasera, ciao Carlo, ciao Giovanni. Non sono io comunque che stavo entrando, ho sentito qualcuno, ha detto vediamo se c'è qualcuno. Vediamo di farlo entrare. Perché qua arrivava molto forte, era 9.30. Ehi Roberto, già ero due giorni senza sentirti. Anche io l'altra volta infatti sono stato un paio di volte e non ti ho sentito, ho chiesto anche di te. Giovanni l'altro giorno era Massino, adesso sta arrivando oltre 9.15. Infatti è quello, perché l'altro giorno con questa radio che è piazzata avevamo fatto delle prove, addirittura è riuscito a parlare con Natalino anche se siamo passati in banda laterale e poi questa radio siamo ritornati in AM e ho visto che usciva bene anche in AM, se no prima Giovanni arrivava con un segnale massimo 7 qua, ma la radio di 3, invece adesso mi sta arrivando molto bene, Santiago 9 passa e anche la radio è ottima. Ciao Roberto, ne approfitto per salutarti, buona serata, ben entrato. Con Natalino ci ho parlato ieri. Scusate, ho risposto un attimino al telefono, non so se nel frattempo avete parlato. Giovanni ti risaluto, risaluto a Carlo, eventualmente se c'è anche qualcuno in ascolto. Vai Giovanni, di nuovo a te. Carlo, ci sei sempre? Sì, sì, vai Giovanni. Stavo dicendo che ieri ci ho parlato con Natalino. AM? Sì, sì, in AM, mi sentiva bene. Hai visto? Invece quando usavi l'altra radio non ti sentiva, perché secondo me ha un problema l'altra radio. È quella che c'è in macchina se non sbaglio. Positivo, è quello che c'è in macchina, sì. Perché quando ce l'avevi collegato in casa, lo stesso. spesso usciva male, io non so che radio sia quella lì, ma questa che stai usando è perfetta. E hai visto anche Roberto Santiago ha detto 9 più 30, capito, arrivi molto bene. 9 più 15, 9 più 50, ma mi ascolti a me Giovanni, non ho capito se mi hai ascoltato. Caspita, ti sento benissimo, bene, forte e chiaro, buono di segnale, buono di radio. Se va a mio controllo, tu sei a Platamona mi sembra, come arrivo? Bello forte e bello chiaro, però non ti posso dire perché lo smitter è un po' sbiadito, capito? Comunque mi arrivi bene bene di segnale, si leggono male i numeri, mi arrivi fortissimo di segnale e anche di radio. Capo, il fratello aveva dato dei problemini, poi si è ripresa veramente da sola, pensavo che fosse successo qualcosa di grave, durata 2 giorni, poi è tornata alle origini, queste stazionarie sono 1 e 1, per cui stanno andando perfettamente. Carlo c'ha un segnale spettacolare, tu arrivi 9 più 50, da me, a me non ce l'è per nessuno, dai. Ok, di nuovo a te Carlo e Mike. Io la stazioncina l'avevo completata con l'antenna J-Paul della Smart, che è quella che mi aveva dato Claudio, sistemata, e ho visto che si comporta bene anche con il vento forte, capito, perché è molto aperto dove sono io, e quei giorni di maestrale che stava tirando si muoveva la parte alta solamente, fletteva, però niente di che, tutto il resto è a posto, capito, è bella stabile. Sì, l'ho vista dalla strada, ho fatto lo sguardo un tempo fa, perché che cos'è questa cosa? Una bizza, una posizione spettacolare, bellissima. Ho detto, passerai tu numero uno in frequenza, almeno a parte mia, non c'è per nessuno. Ok, Giovanni, a te di nuovo il mic. Io con 4 metri dal suolo mi accontento, dai, via. Ti sei abbassato il segnale comunque, Giovanni. Come mai sei sceso a 9.10? Sì. Adesso sei ritornato a 9.15, come mai c'è questi sbalzi di segnale? Ma ti stai aiutando tu? No, non so niente, c'ho un cavo d'antenna che ogni tanto lo devo... è piegato un po', capito? Rimane pressato fra la parete e la radio. Tu sei andato a stazionare, sei sceso di tanto, sei sceso da 9.15 a meno di 9.10. Si è salito il gatto e me l'ha incasinato perché l'ho appoggiato così, non è fisso. Un po' di fascette mettici Giova e lo tieni fermo così. Non tirarlo troppo, fai in modo che sia morbido il cavo, gli fa una specie di mezzaluna Giova e poi in modo che non scarichi tutto il peso del cavo sul PL, se lo consiglio l'amico. Sì, è proprio così che succede. Io sono seduto qua e c'è il gatto, ci è salito sopra. Meno male non stavo dando potenze strabilianti, se no si fulmina il gatto. 5 watt questo, credo, è 4-5 watt. No, stanno alla grande, benissimo segnale, ottima radio, niente da segnalare, ok. Ma c'era poco fa qualcuno ha detto, ma non c'è nessuno, è arrivato 9 più 30 qua, fortissimo, non so chi era. Avanti, chi voleva entrare sul canale 10? Nessuno. Carlo, tu devi andare al lavoro, così hai detto alle 9. Io alle 9 devo essere là, infatti sono mezzo pronto, devo cenare perché preferisco cenare a casa alle 8:15, così come ceno poi esco, capito? E me la prendo con calma, devo intorno alle 9:15 che do il cambio al collega che oggi è in postazione lontana al varco Carraio Doganale, sino a mezzanotte rimango lì, poi rientro dentro per fare la chiusura dell'aeroporto, capito? Ma poi chiude a un certo orario l'aeroporto, Carlo? Chiude a mezzanotte e rientriamo alle 4 del mattino. E tu sei andato a rimane? Alle 5. Ti sostituisco qualcosa? Il primo volo qual è, quello delle 7:10, quello di Milano, o ce ne sono altri? Sì, sì, il primo è quello delle 7:10, i colleghi che entrano la mattina entrano tutti alle 5, capito? E noi di notte rimaniamo in 3. L'ultimo che arriva, quello di cosa? Sempre di Milano o di Roma l'ultimo che arriva? Mi sa che Milano 22:20, Roma lo stesso 22:10, però a volte arrivano 10 minuti, un quarto d'ora prima, dipende da come hanno lo slot, capito, che la torre gli dà diciamo il via, e ogni tanto arrivano, entro le 10 arrivano tutti e due, a terra prima uno poi l'altro. Scusa un attimino, voi cosa ci fate allora? L'ultimo aereo arriva alle 11, diciamo, il tempo di scaricare passeggeri, prendere tutta la Roma, non è che si faccia l'una di notte, cosa ci fate dall'una alle 4 del mattino voi? Tipo, se settimana scorsa abbiamo avuto due emergenze, quindi un aereo della Tunisair che era diretto a Marsiglia, praticamente fumo in cabina ed è atterrato alle 2 di notte in emergenza, quindi vigili del fuoco, tutti allarmati, ambulanze, tutto pronto, capito? Però poi è atterrato tranquillamente, i passeggeri li hanno sbarcati, hanno fatto arrivare un altro aereo alle 3:30 del mattino, li hanno ricaricati e sono ripartiti. E cosa era dovuto a questo fumo? Scusa il monopolio, è dovuto a un difetto dell'impianto di raffreddamento, così ho sentito. Poi sempre lo stesso aereo è arrivato a Marsiglia, il giorno dopo è ripartito e si è presentato lo stesso problema ed è riatterrato a Alghero, quindi abbiamo avuto due atterraggi d'emergenza dello stesso aereo in due giorni diversi. Figurati, la notizia siete su con l'aereo. Vai Giovanni, a te il mic. Buona. Comunque Robè, la notte noi facciamo la videosorveglianza, abbiamo tutto il sistema telecamere che lo, diciamo, gestiamo tutto noi. Uno sta alla videosorveglianza, l'altro al varco Carraio sino a mezzanotte e poi io devo fare la chiusura e un altro rimane dentro al varco passeggeri, perché comunque durante la notte ci sono quasi sempre lavori, quindi entrano manutentori, entra il personale delle pulizie, sino alle 2 di notte c'è movimento, capito? Dalle 2 alle 4 si tranquillizza tutto e poi dalle 4 come riapriamo iniziano ad arrivare un po' di passeggeri, personale che entra alle 4:30, perché ci sono altri settori che hanno il turno alle 4:30, capito? Scusate, io mi devo allontanare, che me sono arrivate le pizze, ci sentiamo dopo magari, ciao ciao! Ciao ciao, alle prossime, avanti col break. Claudio, ben sentitelo, da un po' che non ti sentivo, infatti l'altro giorno ti ho nominato, detto, non ho sentito più Claudio da Muros, e finalmente oggi riesco a risentirti. Sto parlando con Giovanni che modulo da Platamona, te lo rilancio e così vedi se lo senti. A te il mic, Giovanni. Ciao Claudio, buonasera, spero che tu mi ascolti, cambio. L'ultima volta che ci siamo sentiti, se non sbaglio, era, ti ricordi, avevamo parlato col tuo amico di Ozieri, se non sbaglio Luigi mi pare si chiamava, e poi da quel giorno non ci siamo più sentiti. Si fa quattro chiacchiere e qualche volta io entro, tipo ieri notte sono rimasto un po' ad ascoltare, poi sono entrato, però alle 10:20 ho chiuso tutto perché ero anche stanco, capito? Qualche volta entro dopo cena, intorno alle 9:30, se c'è qualcuno, qualche chiacchierata me la faccio alla radio. California La Cuesta, buonasera. Buonasera, la riprendo io. Ciao Giovanni, buonasera anche a lui. Non so che altro ci sia in questo canale. Buonasera Gianfranco, io 2 e Carlo. Ok dai, rilanciamo allora a Carlo, vai Carlo. Ehi Franco, buonasera, niente, facendo 4 chiacchiere in frequenza, passare 10 minuti così con gli amici della radio. Niente, adesso approfitto e chiedo un controllo a Claudio, a Muros, come sto arrivando, perché voglio provare uno strumento nuovo che ho. Se mi dai il controllo di, diciamo, di Santiago adesso, e poi tra un po' ti chiederò l'altro. Adesso è lo stesso segnale, aumentato oppure uguale, Claudio? Ok, ho capito, la radio è sempre buona, vero Claudio, che si è aumentato, non distorce, non sempre buona, oppure trovi che sia peggiorata? Ciao Claudio, ciao a tutti i nostri amici, doppio uno da questa parte, avanti. Ciao Gianni, c'è Franco, Giovanni, Claudio da Muros e io da Sassari. Kappa, saluto tutti cordialmente. Franco, avanti, buonasera. Sto uscendo con quell'apparecchio, con le tarre super sidering. C'è rumore d'alternata, Gianni. Perché quando l'appoggio sul coso... Guarda, adesso se lo sta facendo. Negativo, adesso va bene. Poco fa c'era un po' l'alternata sotto. Perché come l'appoggio sul coso, sullo scaffale, come l'appoggio fa alternata, se invece lo tolgo non è fatto. Com'è la radio? Ottima, va benissimo. Va bene Gianni, la radio va bene. Kappa, anda bene. Quella roba là, l'hai guardata? Dai, lo stavo controllando, poi mi sono stancato e l'ho mollato, dico la verità. Vabbè, non c'è problema. Gianni, buonasera, ben sentito, da Giovanni, terzo pedine, cambio. Ciao Giovanni, ben sentito, tutto ok? Tutto Kappa Roggero, fra te, come dice qualcuno. Mezzugai. Anche Claudio Damuros, già l'hai sentito? Sì. Sì, avanti Claudio, avanti. Muros. Gianni Lupulun da questa parte che ti super cordializza, avanti. Dai, riprendo io e ne approfitto e vi saluto e ce la riascolto alle prossimine. Ciao Carlo, ciao anche a Giovanni, Gianni e gli eventuali ascoltoni. Stai uscendo male, ciao, comunque stai uscendo male, tutto strappato. Aspetta, guarda adesso, 1, 2, 3. Io ti sento male, non lo so gli altri. Giovanni da questa parte ti sente benissimo, Gianfranco ti sente benissimo. E comunque ricambio i saluti e Gianfranco. Guarda un po' adesso, aspetta un secondo. Hola, hola. Aspetta, E adesso com'è? Adesso è perfetta, non sta riuscendo benissimo a far niente, sta riuscendo tutto gracchiante e tutto strappato. Vabbè, comunque, io ti ho sentito così, fratello. Va bene, adesso bene, mi ascoltate? Sì, aspetta un secondo. Io sicuramente E adesso com'è? Bene, brava, bene. Stai uscendo bene, fra. Ok, no, sicuramente avevo toccato il pilcoso, il micchiere, non me ne sono accorto, ho capito. Comunque va bene così. Anda, signore. Cappa di positivo. Natalino. Ciao a chi mi ha salutato. Buonasera. Cosa questa? Ciao Natalino, buonasera. Ciao Carlo, buonasera, ciao Franco. Sono entrato per un salutino, va. Ma te ne hai dimenticato la metà però, Non stavo ascoltando. Va bene, dai. Me ne passo in QRX. Ci sentiamo alle prossime. Sì, a Natalia, alle prossime. Io lo stesso sto 5 minuti, poi le devo preparare. Ceno ed esco per lavorare. Io. Oh, lo stesso me ne vado, che devo portare giù il cane, dai. E poi do da mangiare. È finita la serata, dai, sono entrato così per stare 5 minuti, rilassato, perché stavo facendo un lavoro un po' impegnativo e mi ha stancato. Comunque lo guardo con la calma con la questione lì. Ok, ciao Giovanni, ciao a tutti di nuovo, buonasera circolare per me QRT, ciao a tutti. Grazie a te del QSO, dei controlli, quando puoi fatti sentire ogni tanto, che ci fa sempre piacere scambiare quattro chiacchiere con te. Ti rilancio Giovanni. Ciao Claudio, ben sentito e grazie di tutto, buon proseguimento di serata, alla prossima. Ciao a tutti da parte mia, ciao ciao. ciao a tutti, ciao. Ciao Gianni, ciao Franco, ciao Natalino se sei ancora in ascolto. Niente, io mi trattengo due minuti con Giovanni e poi anche io chiudo. Sì, ancora due minuti dai e poi ce ne rientriamo. Ok Giovanni, mi fa piacere che stia uscendo bene di radio, così magari anche tu puoi allargare le chiacchierate, dai, visto ti senti anche a Muros, Claudio, quindi già va bene così. Però segui il consiglio che ti ha dato Claudio prima di Sassari, perché ce l'hai magari troppo tirato e fa gioco, capito, il PL dietro la radio e magari carica un po' di stazionarie, capito, cerca di fargli fare una mezza curvetta lì se ti è possibile. Ma oggi volevo acquistare un PIL a curva, a L, e sono andato da quel CBC, quel delinquente lì, e cazzo, manco voglia di cercarlo appunto, no, ne ho. Seduto era nel gradino di fuori e seduto è rimasto. Fumando, scommetto. Questo non ci ho fatto caso da curva. Sì. Tonino è così, è molto svogliato, prima aveva un ragazzo che lo aiutava, ma ormai ci manca da diversi anni e quindi è da solo e non riesce più a trovare certe cose, capito? Dovevi andare forse da Fusaro, che magari Fusaro è più ordinato e quindi magari una richiesta del genere avrebbe almeno controllato e ti diceva se ce l'aveva un PL del genere o meno. Mi sono andato l'altra volta, mi ha dato un modello che non è tanto bello, non è tanto bello questo modello, dunque per qua ci voglio mettere proprio quelli a L, cioè ci sono tutti quanti in treno, perché ripeto, ero seduto vicino al tavolino, mi gatto è salito sopra e mi ha sfornato tutto. Sono rientrato? Via, vabbè, lì c'era Claudio Di Muros, però ha chiuso, è entrato Franco, California, Gianni, ma Gianni Doppio Room, hanno tutti chiuso, siamo rimasti io e Giovanni. Scusa, ma hai fatto qualcosa? Ti stai aiutando con qualcosa, Carlo? In questo momento sì, infatti stavo facendo delle prove con Claudio Di Muros. Come ti sta arrivando lì? 960, però io ti devo attenuare, se no ti sento saturo. Allora è troppo, adesso lo abbasso un po'. E quanto ne arrivi a Muros in queste condizioni? Sto 950. Figurati, mamma mia. Invece non sei allucinante la posizione che c'è, tu arrivi. E a Porto Torres come arrivi? Cioè mi porto a Placamona, lo stesso dovresti arrivare a Momba. Giovanni purtroppo a Placamona si mi sente, però non mi sa dare un controllo di Santiago perché ha diciamo la radio che non è perfetta, capito, con lo strumentino non riesce a visualizzarlo bene, mi ha detto. No, qua è da 960, non c'era nessuno questo segnale, neanche Pompugno, solo con l'attacca lui riesce a arrivare. Quanto gliene stai dando di whisky? Adesso ne ha 50. Figurati, esageratamente forte arrivi qua. Io ti ripeto, devo attenuare perché sennò va in saturazione allo stadio di ricezione dell'apparato. Ok, Giovanni, ho fatto il mic. Sì, ragazzi, così ne approfitto per salutarvi e grazie della conversazione e ci sentiamo alle prossime. Buon proseguimento a te Roberto e buon proseguimento di serata a Carlo, soprattutto buon lavoro a Carlo, che stasera vuole lavorare. Sì, ciao Giovanni, ben risentito, dai. Buon tutto anche a te, buon proseguo di serata. Vai Carlo. A Giovanni, ci sentiamo domani o quando capita, non ti preoccupare, alle prossime. Adesso non mi devi più attenuare perché ho staccato. Sì, così sei 9,50, prendi 10 punti e sono tanti, amico. Luca Leggio, venivo a scendere a Ralghero, devo prendere una amica di mia figlia alle 11 con loro da Milano. Arrivo, Mari, se ci sei ti saluto. E allora, giovedì sono di riposo perché praticamente oggi faccio la notte, poi c'ho lo smontante, domani è giovedì riposo. Vabbè, dai, avremo modo di salutarci di persona. Quando capiti da le mie parti, passa quando vuoi, sei sempre bene, un piacere di sentirti. Carlo, già ci passo quando ho capito nella tua zona, già ci passo spesso, magari uno di questi giorni se non si è occupato col lavoro già mi fermo a fare quattro chiacchiere, dai. E niente. niente, io purtroppo devo chiudere perché vedo che sono le 8:15, mangio al volo e poi devo uscire. Robè. Anche io adesso vado dall'altra parte, ho visto ci sono degli amici. Comunque ti saluto, Carlo, sempre un piacere ascoltarti e quando vuoi passa e ci salutiamo di persona. Ti auguro un buon lavoro per la serata e un buon proseguo. Ciao ciao, alle prossime. Ciao Roberto, alle prossime, grazie delle 4 chiacchiere, ci sentiamo alle prossime. Buona serata. Saluto anche qua gli eventuali amici WSWL, non ci sa più nessuno, avanti su 10 ti devono entrare. Vabbè, io vado da altre parti, ciao a tutti. Ciao ciao Robè. Ne butto giù quel palo, cambio, metto un palo telescopico, metto due pali d'acqua da 3 metri e almeno sollevo, da 3 passa a 4 metri e poi quando la giocata la piglio abbasso, trovo, me la scendo nel terrazzino, basta che stacco le 2-3 gaffe, tac, e io sono a posto, lavoro bene, a me non me ne vado a fare in pieno inverno, cazzo, a diventare macco qualcuno con la scala, aspettare che cambi il vento, abbasso al limite del tetto, faccio altro che poi sono in valla. Ciao basso, basso. Sì, buonasera Luca. Sì, sì, sì. Fai così, fai. No, ma dico che questa che ho preso è fatta veramente bene. Adesso gliela stavo guardando così, ma cavolo. No, già esce bene come antenna. Ciao Luca, io non t'ho sentito, ma è messo la modulata in pratica. Ben entrato. Sì, stavo qua, se ti passavo, dai. Certo che mi passa, ci mancherebbe, ce l'hai attaccato, ce l'hai voluto, è altro discorso. Andiamo, ma facciamo un po', ti capito, oggi mangiato due buttacce da stasera. Ehi, sono appena arrivato, oggi tu aspetta, non trovo nessuno, purtroppo le mie ore sono queste, la mattina la mia è un po' difficile. Ah beh, quello sì. No, io stamattina la verità mi sono mettato verso le 7:30 del mattino e mi sono svegliato alle 2. Ho pranzato e poi sono uscito un attimino alle poste, poi mi sono bevuto un paio di bere con un paio di amici e sto diventando adesso per la verità. Figurati tu. Cappa, arrata di tubi che l'hanno fatto questa volta, che è proprio diversa, che parola. E ti mando la foto, te lo faccio vedere che tubi gli hanno fatto. È diverso dall'altra che ho io. Buonasera anche a lei, mandamela, non c'è problema. Chi è? Avanti, l'amico. Segnale 7, Mirko D'Alghero, Radio 5. E come hai fatto a bruciare la tua antenna? Cosa hai attaccato con l'ideale? Cazzo, non abbiamo 27L. Sono tra la compagna già che è matta che si fonde, cazzo. Zodia. Siamo a posto già. Peggio della Energy 5 ottavi allora. Beh, almeno quella 500 watt di picco picco te li tiene, ma... Lo sento io. Ciao Lupo Grigio! C'è ma Lupo Grigio! Non mi ricordo come si chiamava lì. Ciao! Mirko D'Alghero, ma lo sento giù con Remi! Cappa, ciao Mirko! Vabbè, un po' più basso sì stasera! Vediamo un po', mi ascolti Mirko! No, non ho capito cosa ha detto, come mi ascolta? Segnale 8! La radio buona è! 100% buona ha detto! Cosa? Ha detto che è 100% buona ha detto! Mi dispiace, non lo sento io, ma è l'antenna sua e... vabbè, per la radio non è che sono buono, lo devo dire! A seconda della zona, tipo vedi, dove abita Angelino, lui abita vicino a Fertilia, lo sentivo bene, agganciato però, mi arrivava 7-8 mi pare! Ha detto che stava pompando con l'antenna e gli è rimasta in mano in pratica mia, quella che c'aveva, l'autocostruita. Non è un granché, no. Capito. Ci vogliono antenne buone che resistano. Beh, se vuoi che resista bene l'antenna bisogna fargli la bobina completamente in rame, il discorso è quello. Non puoi mettere un cavetto così, hai capito? E il filo fine da, come ti posso dire, da, neanche, cioè da uno in pratica, quindi